Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria? Beh, tantissimi devo dire oggi, con due diverse facce. La faccia dei mercati finanziari, che vedono Milano essere la migliore in Europa, forse al mondo a questo punto, visto che sono tutte un po' negative le borse, tranne Parigi che guadagna Francoforte che guadagna lo 0,4%, Parigi invece perde lo 0,4%. Londra perde l'1,80 e l'America perde lo 0,80%. Milano più 2,6% sull'S&P MIB e più 1,6% sul MIBTEL. Che cosa è successo? Beh, Unicredito guadagna il 18,7%, torna sopra l'euro per azione, 1,15 euro. Il Banco Popolare più 8,23% a 2,40 euro, Intesa più 7,30 a 1,91 euro, Mediobanca più 6,5 euro e ancora Luxottica più 4,6, Media 7 più 3,5, Autogrill più 3,20, Ubibanca più 2,5. Ma insomma, il tema di borsa si chiama Unicredit, anche il Banco Popolare, ma insomma, oggi da Londra nella conference call ve la faremo ascoltare, avremo un approfondimento nella seconda ora. Il numero uno, Alessandro Profumo, ha detto un insieme di cose, diffondendo un utile netto sopra le attese degli analisti a 4 miliardi di euro contro i 3,7 attesi, e poi ha aggiunto che va accantonamenti sui crediti per 3 miliardi e 7, ma soprattutto, oltre che confermare che non vi sarà nessun bonus per Profumo, per Alessandro Profumo e per tutti i manager del comitato, il consiglio di amministrazione di Unicredito ha dato mandato a Profumo di negoziare con il governo i Tremonti bond per circa 4 miliardi di euro. E questo ha fatto schizzare il titolo, come già è successo al Banco Popolare, anch'esso oggi molto forte, più 8,1%. Le due banche che hanno annunciato per prima il Banco Popolare di voler fare richiesta dei Tremonti bond sono quelle che stanno più guadagnando. 4 miliardi non è poca cosa, visto che il Banco Popolare aveva chiesto 1,4 miliardi. 4 miliardi è una somma importante di negoziazione per i Tremonti bond, che ricordo vuol dire che la banca emette delle obbligazioni, cioè chiede un prestito che viene comprato dal Tesoro. Ecco perché si chiamano Tremonti bond, con un tasso di interesse che deve dare la banca tra il 7,5% e l'8,5%, ha 4 anni per ridarli, sono obbligazioni convertibili, ossia se non riuscisse a pagare questo prestito, lo Stato a quel punto convertirebbe queste obbligazioni in azioni e quindi entrerebbe nel capitale bancario, ma è un'ipotesi estrema. Richiedere le obbligazioni di Tremonti significa però anche, o del Tesoro per meglio dire, significa anche sottostare a un insieme di regole sugli stipendi, sulla governance interna e anche sull'utilizzo di questi fondi, e anche e soprattutto sull'utilizzo di questi fondi per le imprese. Quindi devono garantire le banche che non useranno questi soldi per altri motivi, al di là del caso ormai storico di AIG. Alcuni di voi dicono, ma insomma, ma che succede? Unicredito prima perde il 70-80% e poi in un giorno solo guadagna il 17-18%. È la borsa bellezza, Intesa San Paolo più 7,20%, anche Intesa ormai è data da tutti come la prossima banca che farà richiesta dei Tremonti bond. 349-238-6666 per i vostri sms. Altri temi, beh, la produzione industriale di oggi è molto brutta, ripeto, due facce oggi come e nei prossimi giorni, quella della finanza e della borsa che vede qualche segnale di speranza, e quella dell'economia reale che invece sta subendo adesso quello che in borsa è successo qualche mese fa. Molto male la produzione industriale, molto male quella delle auto, anche dell'acciaio, dati negativi anche a livello di Fondo Monetario Internazionale, per cui il 2009 ce lo siamo giocati, ma le speranze sono tutte che entro fine anno inizi un percorso, seppure timido, ma di ripresa economica. Le altre notizie, posto che parleremo anche dei casi BMW, avremo un'intervista con il ministro Scajola sull'aiuto alle piccole e medie imprese, un'intervista e alcune dichiarazioni sul bilancio Mediaset, l'INPS e appunto Unicredito. Il petrolio in calo però sempre a $47,7 al barile. Ancora l'ENI oggi in tema di petrolio ha firmato un protocollo d'intesa con il Pakistan per sviluppare nuovi progetti in tutti i settori di attività nel campo del petrolio e del gas. Il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, ha detto che in sostanza il gruppo intende investire tra i 50 e i 70 milioni di dollari all'anno nell'esplorazione in Pakistan per raddoppiare la produzione rispetto al 2008, quindi pari a 56.000 barili, vuole portarla, se abbiamo capito, a 110.000. Altri 50-70 milioni verranno destinati al sviluppo e alla manutenzione degli impianti di estrazione del paese. Sempre in tema di petrolio, una notizia che adesso farà arrabbiare gli ascoltatori, e mi riferisco ai prezzi della benzina italiana e del gasolio. Lo dice Mister Prezzi, ossia Luigi Mastrobuono, il garante per la sorveglianza dei prezzi. Da noi, in media, non rispetto al paese dove la benzina è meno cara, ma in media, in Italia, la benzina costa 5 centesimi in più rispetto alla media europea, ma soprattutto la cosa incredibile è che la differenza tra quanto costa la nostra benzina e quanto costa quella dei paesi europei sta aumentando, e questo veramente non si giustifica. Cioè, siamo arrivati a 5 centesimi e mezzo in più contro 2 centesimi e mezzo di febbraio. Allora, il petrolio cala, però la differenza tra noi e gli altri paesi d'Europa aumenta. Complimenti. E ha detto lo stesso presidente, il garante dei prezzi, Mister Prezzi, ci sono margini per un ribasso. Non cambia anche per il gasolio. Il gasolio è il terzo più caro in Europa, ma questa è già un'altra classifica. La benzina è la quarta più cara in Europa e il gasolio è terzo. Questo, diciamo, è un dato storico. Il problema è spiegare com'è che la differenza tra noi e il resto d'Europa aumenta invece che diminuire. I misteri dell'energia. La crisi, il Fondo Monetario Internazionale, il PIL mondiale calerà nel 2009 dello 0,5%, tra lo 0,5 e l'1,5%, mentre dovrebbe esserci una graduale ripresa nel 2010. Questo è il documento che il Fondo Monetario ha consegnato ai paesi del G20. A inizio aprile a Londra vi sarà il vertice dei G20. Il PIL britannico, il PIL americano, scusate, sempre per il Fondo Monetario, calerà del 2,6% quest'anno, del 3% calerà l'Europa, di quasi 6% sarà il crollo del PIL giapponese. E il Fondo Monetario dice attenzione però, perché i G20 devono adottare azioni immediate per contenere i rischi di un crack bancario che sono aumentati. Si riferisce a livello mondiale, non a livello europeo né tantomeno a livello italiano, però ma attenzione anche a questo. La Cina invece nel 2009 dovrebbe crescere del 6,5%, sempre secondo il Fondo Monetario Internazionale. Nel frattempo i disoccupati in Gran Bretagna hanno toccato per la prima volta i 2 milioni, prima volta da 12 anni, dal 1997 che non si registravano 2 milioni di disoccupati in Gran Bretagna. In America l'inflazione è salita sopra le stime, uno 0,4%. In Lituania il governo è pronto a salvare le banche che ormai sono ridotte a un livello da crack. E che il 2010 possa essere l'anno per una moderata ripresa lo dice anche Jean-Claude Trichet, ossia il numero uno della Banca Centrale Europea. Dopodiché ha detto che la Banca Centrale sta valutando se serviranno altre misure, ossia riduzione dei tassi. Una buona notizia, perlomeno, diciamo così, a livello di immagine, a livello simbolico. Il gruppo AIG, che è finito nella bufera perché Obama era furibondo per il fatto che mentre questi ricevevano decine e decine di miliardi dagli contribuenti americani, distribuivano 170 milioni di bonus per aver fatto fallire il primo gruppo assicurativo americano, di fatto fallire, cioè senza i 70 miliardi dello Stato andava gambe all'aria. Ebbene, oggi il ministro del Tesoro, Timothy Geithner, ha detto che se AIG vuole ricevere gli altri 30 miliardi di dollari che attende, deve ridare indietro i 165 milioni di bonus che ha distribuito ai manager. Banche. Parleremo anche delle dimissioni a sorpresa del direttore generale dell'ABI, Giuseppe Zadra, il quale ha detto: lascio la macchina in ordine, non sto cercando un altro posto, ho raggiunto dei limiti d'età, voglio lasciare il posto ai più giovani, ma si è parlato anche dei prefetti. Parleremo più avanti di queste dimissioni a sorpresa di Giuseppe Zadra, di Unicredit abbiamo già detto. Partiamo allora con il primo... tra l'altro una cosa che non abbiamo accennato, ma Profumo su Unicredit ha detto che il 2009 sarà un anno duro, ma lui è fiducioso di riuscire a pagare un dividendo, che è una notizia importante. Il titolo adesso guadagna il 19% a 1,15 euro. Lo so, alcuni dicono dovevamo comprare oggi, vabbè, fosse così. A chi mi chiede se è il momento di rientrare in borsa, sapete che queste risposte non le diamo, per cui altrimenti probabilmente sapessimo così bene quando bisogna entrare e quando bisogna uscire dalla borsa, non saremmo qui tutti i giorni a raccontarvi cosa succede. Adesso la crisi, ossia il dato italiano sulla produzione industriale. Cala gennaio rispetto a dicembre, ma soprattutto cala di quasi il 17% rispetto a un anno prima la produzione della nostra industria. È un dato pesante quello della produzione industriale, è il peggiore dal 1991, quello, cioè al di là del fatto che la crisi sia un'invenzione mediatica, qui siamo indietro, si torna indietro di 17-18 anni alla fine, e molto male alcuni settori, l'auto e l'acciaio. Avremo degli approfondimenti su questo, però ascoltiamo in primo luogo il commento del presidente Confindustria Marcegaglia proprio sul tema della produzione industriale dopo l'incontro avuto ieri tra l'altro col presidente del Consiglio. Ve ne hanno parlato oggi tutti i nostri GR. L'incontro è stato un incontro costruttivo, direi positivo, in particolare su un punto che per noi era essenziale, cioè il fondo di garanzia per garantire i crediti alle piccole e medie imprese. Ci è stata data una risposta concreta, ci sarà già nei prossimi giorni uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro e quindi questo è un fatto positivo. Su altri punti è in corso un approfondimento, quindi non abbiamo avuto ancora risposte definitive, ma ci siamo ripromessi di studiare insieme delle soluzioni e speriamo che nei prossimi giorni queste soluzioni possano arrivare. Questo ieri sera. In realtà il fondo per le piccole e medie imprese dovrebbe essere salito a 1,5 miliardi, quindi 200 milioni in più, come ha annunciato oggi il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Per finanziare il fondo già domani sarà presentato un emendamento al decreto incentivi che è attualmente in Parlamento. Sappiamo poi che il fondo di garanzia, per un meccanismo che adesso è difficile anche spiegare, ma genera un effetto leva, quella che si usa, che usavano anche i geni delle banche d'affari americane, ma insomma un effetto leva per cui con 1,5 miliardi tu hai garanzie per di solito 10-15 volte tanto. Ecco perché ieri facevamo quel calcolo. Comunque il nostro Vincenzo Meglietta poco fa ha intervistato il ministro Scajola anche sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che appunto è salito a 1,5 miliardi. Sentiamo. Ci sono in Italia 5 milioni di piccole e medie imprese. Abbiamo necessità di trovare insieme forme di crescita di questo settore fondamentale della nostra impresa. Noi oggi incominciamo un'attività che proseguirà nelle prossime settimane per definire provvedimenti condivisi a breve e a medio termine. E incominceremo con il fondo di garanzia per le imprese con una cifra consistente di 1,5 miliardi di euro che libereranno risorse intorno ai 70 miliardi. Ci sono tante cose che in questo paese si possono fare semplificando la vita delle imprese, migliorando i rapporti fra le istituzioni e le imprese stesse. Questo tavolo di confronto, nello spirito della direttiva europea definita dai capi di governo, è proprio quello di mantenere questo tessuto industriale importantissimo. Quando il via libera al fondo di garanzia preannunciato anche ieri dalla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia? Noi presenteremo già domani un emendamento al decreto sull'auto che è in Parlamento per finanziare il fondo di garanzia per le imprese. Lo abbiamo alzato a 1,5 miliardi come risorse, che significa una leva, un moltiplicatore per 10-12 volte, ma significa soprattutto che alziamo anche il plafond da 500.000 a 1,5 milioni per singola impresa, in modo che ci sia una maggiore possibilità di accesso non solo alla piccola impresa ma anche alla media impresa. È un provvedimento auspicato da tutto il mondo dell'impresa, credo che il governo abbia risposto in modo molto celere. Molti timori da parte delle imprese, c'è preoccupazione però anche da parte dei lavoratori. Noi stiamo attraversando un periodo di crisi, è una crisi globale che parte da lontano, che è arrivata sull'Italia. Per la verità ci colpisce meno che altri paesi. Il governo è intervenuto per salvaguardare quelli che perdono il posto di lavoro, per salvaguardare il sistema bancario, per salvaguardare i risparmi, per agire affinché le imprese possano avere credito per proseguire il loro lavoro. È necessario oggi intervenire per garantire il credito alle piccole e medie imprese, è necessario intervenire affinché ci siano incentivi perché questo settore fondamentale possa riuscire a vivere questa fase di difficoltà. Una per tutte, l'IVA per cassa che diventa operativa e permette quindi soprattutto ai piccoli imprenditori dal mondo artigianale al mondo commerciale di avere un momento di respiro. Ma per alcuni settori, come quello dell'auto, noi sappiamo che dati più recenti che stanno per essere comunicati, e lo saranno nelle prossime settimane, danno un aumento degli ordinativi significativi in tutto il settore dell'auto, il che ci fa dire che se si fa qualche provvedimento mirato, che ottiene fiducia dei consumatori, si riesce a riprendere il consumo. Ora è a tutti noto che chi ha un posto di lavoro oggi ha più potere di acquisto di 6 mesi fa e di un anno fa. E quindi chi ha lo stesso potere d'acquisto o ha un potere d'acquisto superiore ad un anno fa, se mantiene il suo stile di vita e quindi se non rinvia gli acquisti, dà un contributo fondamentale per uscire dalla crisi. Questa è l'intervista del nostro Vincenzo Miglietta al ministro Claudio Scajola poco fa. Avete sentito, confermato 1,5 miliardi, quindi più di 1,3 miliardi per di fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. È innegabile, lo dico chi sta scrivendo, che chi il posto di lavoro lo sta mantenendo, quindi pubblico impiego, ma anche i privati che non sono in difficoltà, lentamente stia recuperando qualcosa sul potere d'acquisto, perché l'inflazione è ferma, in alcuni casi si va in deflazione, i saldi ci sono, se tu hai la busta paga e prelievo la fonte qualcosa recupera. Dopodiché alcuni di voi dicono: beh, con quello che abbiamo perso nel passaggio di lira euro rispetto a chi ha potuto aggiornare i listini ci vuole tempo. È vero, però insomma qualcosa in giro si vede, abbiamo fatto anche delle inchieste quanto a saldi, promozioni, offerte. Unicredito, c'è chi dice: beh, era ovvio, sto guadagnando il 40%, è sempre ovvio dopo, nel senso, abbiamo visto il titolo scendere a 70 centesimi quasi, per cui, ma noi consigli di investimento, lo sapete, da 9 anni non ne diamo, e per fortuna. Invece continuiamo con la produzione industriale, perché il dato di oggi, oltre che rappresentare il peggiore dal 1991, ha visto un tracollo della produzione auto, meno 54,6%. Ora l'auto ha fatto -55 a novembre, -54 a dicembre, -54 a gennaio. Voglio dire, quanto pesante sia il calo lo si capisce da questi numeri sulla produzione industriale. Ma male, parecchio male, è andato anche l'acciaio. E allora ne parliamo, visto che l'Italia è il terzo produttore in Europa di acciaio e il decimo a livello mondiale, ne parliamo con, da un lato, il presidente di Federacciai, Giuseppe Pasini. Anzi, facciamo una cosa, ne parliamo dopo le informazioni meteo e la pubblicità, con Pasini e anche la Morandi di Siderweb. Di 17:34 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Si diceva allora della produzione industriale, ripeto che scrive: giornata a due facce, molto bene la borsa a Milano con Unicredit che ha chiuso con un più 19%, 1,15 euro, e il Banco Popolare più 8,6, 2,4%, Intesa più 7,30, Mediobanca più 6,30. Il motivo: si chiamano Tremonti Bond per Unicredit e Banco Popolare, e immagino che il ragionamento sia quello anche su Intesa. E invece giornata che continua a registrare elementi molto negativi per quello che ha a che fare con l'economia reale, le imprese. Al di là del fondo stanziato, il dato sulla produzione industriale è terrificante. L'auto fa meno 54 dopo aver fatto meno 55, meno 54 nei due mesi precedenti, l'acciaio fa un meno 40. Comunque, avevo salutato, adesso li ringrazio, da un lato il presidente di Federacciai, e mi riferisco chiaramente a Giuseppe Pasini. Buonasera. Buonasera, buonasera. Lei rappresenta 160 imprese che da sole fanno il 95% dell'acciaio italiano, e dall'altro anche con il presidente di Siderweb, Emanuele Morandi. Buonasera anche a lei. Buonasera, dottor Barisoni. Perché oggi si è aperta a Brescia, che è la patria dell'acciaio italiano, la capitale dell'acciaio italiano, scusate, l'edizione di Made in Steel. Allora, l'edizione annuale. Presidente Pasini, com'è andato gennaio? Gennaio è andato particolarmente male. In Italia c'è stato un calo sulla produzione del 40%, ma se si guardano i dati a livello mondiale, l'unico dato positivo è la Cina, che ha aumentato la produzione del 2,4%. Poi tutto il resto è con segno meno, dalla Russia all'Ucraina, Brasile, tutti i paesi in sviluppo hanno fatto registrare cali al di sopra del 35%, per cui la situazione è particolarmente critica a livello globale. Ecco, visto che l'acciaio in Italia significa 35 miliardi di euro di fatturato annuo e 39.000 dipendenti, di cui insomma 100.000 dipendenti se consideriamo anche l'indotto, vorrei capire se la situazione è solo di calo mondiale, l'Italia può fare pochissimo. Se invece c'è anche qualche elemento più legato all'Italia, e cioè la recessione colpisce tutti, quindi si usa meno acciaio, si trasformano meno, si realizzano meno manufatti utilizzando anche quel materiale. Voi vi sentite, tra virgolette, in mezzo a una corrente generale, oppure temete che vi possa essere una debolezza specifica dell'Italia? No, noi pensiamo che siamo di fronte a una frenata strutturale. Questo significa che tutto il mondo dell'acciaio, come del resto tutte le economie, stanno attraversando un periodo difficilissimo, e l'Italia si trova anche lei nella stessa identica situazione, ecco. Per cui nel momento in cui ci sarà una ripresa, siamo perfettamente d'accordo che anche in Italia la ripresa ci sarà. Il problema è quando ci sarà la ripresa, perché noi abbiamo fatto alcune valutazioni a livello di situazione, e il nostro centro studi prevede che quest'anno in Italia ci sarà un calo del consumo apparente del 24%, che è un numero particolarmente grosso, cioè una riduzione molto molto forte. Questo significa cassa integrazione e naturalmente una serie di problemi che stanno coinvolgendo un po' tutte le nostre imprese, partendo dalle più grandi alle più piccole, tutta la filiera. In effetti a livello mondiale la produzione è prevista nel 2009 calare del 10%, ed è il peggior dato da 60 anni a questa parte, si è confermato nel settore dell'acciaio. Presidente Pasini, lei stava dicendo della riduzione di occupati, com'è la situazione a livello di cassa integrazione, e soprattutto, diciamo, immaginando che la ripresa arriverà dal 2010, sperando, riuscirete a tener botta, cioè che autonomia avete da qui al 2010? Dunque, noi prevediamo, abbiamo previsto, oggi come oggi, fatto 60.000 i dipendenti in siderurgia, oggi ci troviamo di fronte a dalle 15 alle 17 mila persone in cassa integrazione o con i contratti di solidarietà. In questo momento il governo italiano sta mettendo a punto dei pacchetti come ammortizzatori sociali, e tutto sommato credo che da questo punto di vista ci sta aiutando, ecco, perché alla fin fine se non ci sono gli ordinativi noi non possiamo produrre, per cui la previsione che abbiamo noi da qui a fine anno è che ci sarà una contrazione almeno intorno al 30%, per cui per far fronte a questo abbiamo bisogno degli ammortizzatori sociali, cosa che in questo momento ci sta anche mettendo a disposizione. Per quanto riguarda le previsioni di una ripresa, prevediamo una ripresina nell'ultimo trimestre del 2009, ecco, cioè già sarebbe qualcosa, certo. Ecco, ma sarà una ripresina, ecco, nel senso che evidentemente la situazione in questo momento è molto grave. Ecco. Dottor Morandi, con questo scenario, l'edizione annuale di Made in Steel cercherà di dire che cosa alle varie industrie della filiera, perché non c'è solo chi l'acciaio lo produce, c'è anche chi lo trasforma, chi lo utilizza, chi dà il rottame. Presidente. Ma il nostro messaggio è appunto questo, al di là dei numeri diciamo di tutto quello che ha già detto molto bene il presidente di Federacciai, e la situazione è questa, quindi non possiamo. Però il nostro messaggio è un messaggio di la crisi c'è, è pesante, però guardiamola in faccia e cerchiamo di non aver paura. Cioè anche un certo tipo di scienza economica si è dimenticata che al di là dell'homo economicus, che parla soltanto di formule, di messaggi, di equilibri borrasiani, di formule di Black and Scholes, secondo me c'è l'uomo. E quello di cui l'uomo ha bisogno e tutti noi operatori del settore abbiamo bisogno è, secondo noi, non tanto ottimismo, pessimismo, queste categorie anche un po' banali, ma semplicemente un bene che è molto raro in questo momento, che è la fiducia. E attraverso questa manifestazione, questa 3 giorni, noi stiamo cercando, ma direi che ci siamo riusciti perché i numeri ci danno già ragione, di diffondere queste scintille. Non esiste nulla, voglio dire, che sta ancora partendo. Come abbiamo detto, siamo all'interno di un ciclo molto negativo, però il nostro messaggio è quello, cerchiamo di diffondere queste scintille anche a un mercato che in questo momento dà dei segnali veramente, veramente deprimenti. Però le crisi ci sono, le crisi prima o dopo finiscono e noi da come l'avremo vissuta così ne usciremo, e per cui ma da come l'avremo vissuta dipenderà anche dal modo, che è molto importante, con cui ne usciremo. E quei numeri ci sono, perché ai tornelli stamattina sono passati 20% in più di persone, gli espositori siamo a più 30% rispetto all'edizione del 2007 e abbiamo ricevuto i complimenti per voglio dire, la bellezza degli stand, per tutto quello che comunque siamo riusciti a organizzare anche all'interno di un settore che comunque è in questa situazione che nessuno di noi nega. Allora io vi auguro in bocca al lupo, visto che oggi si è aperta Brescia Made in Steel, che è l'appuntamento più importante del settore dell'acciaio e ripeto, 100.000 addetti e 35 miliardi di euro l'anno di fatturato non è poca cosa per un paese che nonostante tutto è il terzo produttore di acciaio in Europa e il decimo su base mondiale. Grazie quindi al presidente di Federacciai e all'organizzatore di Made in Steel, presidente di Cider Web, rispettivamente Giuseppe Pasini e Emanuele Morandi. Grazie a lei, dottor Barisoni. Adesso tra l'altro vedo anche che, sì è vero, alcuni ascoltatori hanno una buona memoria e si ricordano che 3 anni fa il tema era tutt'altro, mancava l'acciaio, la crescita cinese impetuosa mangiava tutto l'acciaio e i rottami a livello mondiale e bisognava andare a cercare l'acciaio dove alcuni dicono mendicare il Cook, vabbè, insomma, però bisognava andare a cercare l'acciaio dovunque. Adesso è l'esatto opposto. Non ho capito bene alcune obiezioni su Unicredit, ma ne parliamo dopo le 18, per cui chiedo un po' di pazienza ancora. Chiudiamo la parte che riguarda l'economia reale, come si chiama in gergo, e quindi produzione industriale, non solo l'acciaio, anche il settore delle costruzioni è in difficoltà. Tra l'altro oggi l'ANCE, che è l'Associazione Nazionale delle Costruzioni dei Costruttori dell'Edilizia, ha stimato che nel 2009 si rischiano di perdere 250.000 posti di lavoro nell'edilizia. Per i sindacati sono di più, sono 400.000, vabbè. Ma insomma, fossero anche 250.000 sarebbero tantissimi. Che poi dovete sommare quelli appena annunciati o stimati da Pasini di Federacciai. E il presidente dell'ANCE Paolo Buzzetti ha detto il bonus volumetrico del 20%, quello che ha fatto molto discutere con accuse dell'opposizione che si va a distruggere il paesaggio italiano e a rovinare quello che è il paesaggio urbano italiano. Invece favorevole Buzzetti, come prevedibile, ascoltiamolo al telefono, al microfono, oltre che al telefono, della nostra Valeria De Rosa. Per la prima volta sono insieme di fronte alla gravità della crisi nel settore dell'edilizia tutte le sigle di rappresentanza e i sindacati. Non è detto che ci debbano essere centinaia di migliaia di licenziamenti e migliaia di imprese debbano chiudere, dipenderà da cosa faremo subito. Mi dica quali sono queste proposte. Quelle immediate innanzitutto e quelle su cui ci battiamo, che siano effettuati i pagamenti subito alle imprese e che ci sia un piano di opere straordinario, di opere immediatamente cantierabili, in particolare piccole e medie. Il governo ha già individuato 1 miliardo per le scuole, si tratta di incrementare questi fondi e introdurre una serie di miglioramenti normativi, fiscali e semplificatori che permettano di fare per esempio le opere pubbliche in tempi ragionevoli, direi in tempi europei. Ci sono anche tutte queste proposte del cosiddetto piano casa che riguardano semplificazioni, l'abbattimento di costruzione, le semplificazioni dei tempi che vanno molto bene. Tutta la polemica sul 20% in più naturalmente ai privati, l'importante è mettere controlli da paese moderno che impediscano abusi e brutture. Le chiedo in merito allo sblocco da parte del CIPE di quasi 18 miliardi per le infrastrutture, di cui però molti sono per opere non immediatamente cantierabili, tra cui c'è anche il ponte sullo stretto. Innanzitutto è questi denari, vedere se realmente sono attivabili da subito. Le grandi infrastrutture vanno naturalmente fatte. Il ponte sullo stretto va bene, non la vedo come una priorità anticrisi immediata. L'importante è che ci sia questo piano di opere piccole e medie, immediatamente cantierabili. Queste sono le effettivamente anticrisi. Eh sì, il tema delle opere da subito cantierabili è un tema delicatissimo, come quello in parallelo, se volete, dei soldi da subito spendibili, ossia i crediti alle imprese, 70 miliardi di euro, che lo Stato, lo ripeto chi scrive, ha già messo in bilancio, diciamo così, in maniera un po' impropria, ma alla voce uscite, quindi non andrebbero a peggiorare il nostro deficit, sono già considerati i soldi che lo Stato deve, per quindi l'idesse è finita lì. Allora, la borsa, partiamo dalla giornata, più 2,80%, Mibtel più 1,70%, la migliore in Europa, Piazza Affari, Parigi ha perso lo 0,2%, Francoforte ha guadagnato lo 0,2%, Londra ha perso l'1,5%, l'America ha perso, sta perdendo l'1% sul Dow Jones e guadagna lo 0,35% sul Nasdaq. I motivi si chiamano Unicredito, che ha fatto ricorso, cioè ha annunciato che farà ricorso ai Tremonti Bond per 4 miliardi, ma anche ha annunciato un utile superiore alle attese e Profumo ha detto che intende distribuire un dividendo nel 2009, anche se sarà un anno difficile. Banco Popolare più 8,6%, Intesa più 7,3%, Mediobanca più 6,3%. Se siete d'accordo, direi che, visto il tema, questo è un approfondimento a parte nella seconda ora del programma, mentre parliamo degli altri titoli con Guido Maurino di Radio Colle sulle 24 ore. Buonasera Guido. Buonasera. Allora, al di là di questi quattro titoli, Luxottica che guadagna il 4,6%, Mediaset il 3,3%, Autogrill il 2,90%, Bulgari il 2,70%, Ubibanca più 2,5%, A2A più 1,80%. Sul fronte opposto, Fondiaria ha perso il 4,1% come l'Espresso, Parmalat il 3,3%, Prismian il 2,2%, Telecom il 2% come Buzzi, Unicem l'1,7% l'ha perso Italcementi, l'1,6% Fiat, ma anche Fastweb, 1,5% di calo per Impregilo, Mondadori meno 1,1%, Tenaris meno 1%. Allora, avremo un'ampia pagina sui rialzi, partiamo da Fondiaria, meno 4,10, rapidi. Sì, Fondiaria diciamo che ha perso quota oggi anche dopo i guadagni di ieri, quindi si tratta soprattutto di prese di beneficio dopo la seduta di ieri in cui il titolo era stato, si era mosso in seguito all'intervista dell'amministratore delegato di Fondiaria SAI Fausto Marchionni. Marchionni aveva detto che il 2009 sarà un anno caratterizzato ancora dalla prudenza per il gruppo assicurativo, ma aveva anche sottolineato che quello che presenterà l'assemblea degli azionisti in aprile è comunque stato un bilancio 2008 positivo che conterrà dei segnali importanti per gli azionisti e per il mercato. oggi, dopo queste parole, dopo i guadagni di ieri, si tratta soprattutto di prese di beneficio. Ancora l'Espresso meno 4. Veniamo a chi è cresciuto, ma non per motivi bancari. Mediaset all'indomani dei conti, o meglio, oggi la conferenza stampa. Hanno parlato di Mediaset i vertici. Comunque, i ricavi sono saliti del 4,2% nel 2008, utile in calo, pesa la svalutazione per 45 milioni dell'avviamento operata da Edam, la holding che controlla Endemol. Quindi gli utili sono calati a 459 milioni contro i 506 milioni di utili di Mediaset nel 2007. Allora, tra l'altro, Mediaset ha proposto un dividendo che però si abbassa, non va più a 43 centesimi ma va a 38 centesimi. Sentiamo Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, intervistato dal nostro Stefano Totoro. È andato molto bene, visto naturalmente l'atmosfera che si respirava in giro, quindi diamo 38 centesimi per ogni azione, quindi fa un rendimento vicino all'11%. Io credo che se ci guardiamo in giro, poche azioni, obbligazioni, titoli di Stato danno un rendimento di questo tipo, quindi non possiamo che essere soddisfatti. Così Fedele Confalonieri. E nel corso della conferenza stampa chiaro che si è parlato anche della concorrenza, della rivalità con Sky a colpi di Star, ma non solo. Sky è molto temuta da Mediaset e non è un mistero. Sentiamo però che cosa ha risposto Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, a chi gli chiedeva se la concorrenza di Sky sulla TV generalista potesse far aumentare i costi per Mediaset, cioè i costi della concorrenza. Non temiamo un aumento di costi legato alla concorrenza di Sky, perché noi andiamo avanti per la nostra strada. Quindi abbiamo in mente che tipo di televisione vogliamo fare nei prossimi anni, e quel tipo di televisione a quei costi faremo. Non è certo un programma di un artista piuttosto che di un altro su Sky che ci fa cambiare strategia da questo punto di vista. Per quanto riguarda le nuove piattaforme, l'accordo con Telecom Italia non è in esclusiva, quindi noi siamo pronti anche a fare altri accordi. Sulla telefonia va avanti il nostro lavoro, sia come diciamo così network operator che come fornitore di contenuti sul DVB-H, che dal nostro punto di vista, come dire, procede come da programma, e quindi a quello rimaniamo. Allora Guido Maurino, il titolo oggi, che un po' aveva sofferto nei giorni scorsi, invece alla fin fine ha guadagnato il 3,3%. Sì, il titolo ha guadagnato oggi sia appunto per i conti, sia in qualche modo anche per le rassicurazioni che sono state date dall'amministratore delegato Giuliano Andreani, che si è detto fiducioso sul fatto che il mercato pubblicitario italiano recuperi rispetto al meno 12% registrato a gennaio. Andreani ha detto sostanzialmente che la fase più dura anche per la pubblicità saranno i primi tre mesi dell'anno, mentre dopo dovrebbe esserci in qualche modo una ripresa e un recupero anche del mercato pubblicitario. E sempre su questo, tra l'altro ve lo faremo ascoltare anche dopo Andreani sulla pubblicità, perché è un tema molto importante. Ha detto che insomma a gennaio dopo gennaio Mediaset dovrebbe tenere. Vista l'ora dell'aperitivo, c'è anche un ascoltatore che ci chiede di Campari, così uniamo l'utile al dilettevole. Allora, Campari oggi presentava i dati venerdì, ma soprattutto entra Campari nell'S&P MIB proprio sulla scia dei conti dell'ingresso nell'S&P MIB, che vuol dire, lo spiego a tutti, entrare anche nel portafoglio di molti fondi che investono sui titoli principali italiani e quindi essere più richieste. Cosa ha fatto Campari? Sì, Campari ha guadagnato oggi il 6,57%, come dicevi tu, in parte merito dei conti, che comunque sono stati positivi, l'utile è cresciuto dell'1,1%, le vendite dell'1,6%. E anche le prospettive, diciamo, per il gruppo, ha sottolineato l'amministratore delegato, rimangono positive, perché ha detto che il business è solido, i consumi del brand Campari rimangono superiori a quelle dell'andamento del mercato. È vero che pesa anche la maggiore visibilità che il titolo andrà a avere a partire da venerdì, entrando nell'S&P MIB, quindi nel listino principale. In una battuta, i conti e l'andamento in borsa della Rizzoli Corriere della Sera, RCS. Sì, i titoli Rizzoli oggi, dopo un guadagno iniziale anche sostenuto subito dopo i conti, hanno limitato a più 1,73%, mentre sono andate molto bene le Risparmio, che hanno guadagnato il 15,1%. La società infatti oggi, nel pubblicare i conti, ha sottolineato come l'utile è in calo a 38 milioni rispetto ai 220,3 milioni del 2007 e soprattutto il dividendo sarà distribuito solo per i titoli Risparmio e non per quelli ordinari. Quindi questo spiega anche perché oggi i titoli di Risparmio abbiano guadagnato il 15%. :18, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, giustamente alcuni di voi ci fanno notare che nel caso di Unicredito guadagnare il 20% non vuol dire recuperare quando si è perso il 20%, lo diciamo molte volte, ma è giusto ricordarlo. Se un titolo vale, poniamo, 100 euro e perde il 20, va a 80 euro, se poi guadagna il 20 va a 96 euro, cioè non si recupera tutto, ma questo insomma lo dice la matematica. Certo è che Unicredito è tornata sopra un euro per azione, a 1,15 euro, ed era scesa a 73-74 centesimi per azione, e il recupero c'è ed è fortissimo. Banco Popolare più 8,6, Intesa più 7,3, Mediobanca più 6,3%. Adesso ci arriviamo. Vorrei farvi ascoltare però prima alcune dichiarazioni che riguardano il mondo delle banche, ma inteso come associazione, ossia l'ABI. Perché oggi, a sorpresa, nel senso che non se lo attendeva nessuno, si è dimesso, ha annunciato le sue dimissioni il direttore generale Giuseppe Zadra, il quale però, per fugare ogni speculazione, ha detto che sono dimissioni per l'età raggiunta e anche per lasciare posto con un tempo ragionevole, per dare tempo all'ABI di trovare un sostituto, e perché è giusto che in un paese in cui spesso non si dimette nessuno, uno si lasci il posto anche alle nuove leve. Allora, vi è stata una conferenza stampa, ascoltiamo intanto le parole del direttore generale dell'ABI, Giuseppe Zadra, che spiega in questo modo le dimissioni che saranno effettive dopo l'assemblea dell'ABI di luglio. Il mio lavoro nei 17 anni l'avevo fatto ed era arrivato ad una fase conclusiva. E ho cominciato a parlare di queste cose col Presidente nel corso dell'estate. La seconda cosa che ho affermato è che secondo me adesso c'è, dopo la crisi, una fase di riorganizzazione sicuramente a livello europeo, oltre che mondiale. Bisognerà quindi avere forze e risorse nuove. Io quest'estate compio gli anni 68 e francamente, anche se ho voglia di fare ancora qualcosa per qualche anno, un'impresa da 18 o 20 anni non mi sento di riprenderla. L'ho detto, con il tempo sufficiente perché si trovi la soluzione della mia sostituzione, secondo un modello che voi sapete all'estero è molto diffuso, cioè quando si hanno queste cose si dice prima, si calcola prima, ci si prepara prima, quindi nella maniera, direi, non dico collaborativa perché sembra un rapporto esterno. Io qua dentro ci sono stato per 17 anni, vorrei arrivare a finire anche, diciamo così, avendo sistemato questa ultima fase che richiede un po' di tempo, e quindi rimango sicuramente fino all'assemblea cercando di aiutare a superare questa fase di cambiamento. Così il direttore generale dell'ABI fino a luglio, Giuseppe Zadra. Il riconoscimento, la gratitudine espressa dal presidente dell'ABI, Corrado Faissol. Da parte del comitato esecutivo e di tutto il mondo delle banche c'è un profondo rincrescimento per la decisione che dottor Zadra ha assunto. Da parte mia credo che questo rincrescimento sia ancora maggiore, perché in questi 3 anni che abbiamo lavorato insieme abbiamo realizzato una comunione di intenti, una anche se mi è consentito, capacità di integrarsi, di interagire, che al di là dei caratteri, soprattutto del mio, ma che direi il dottor Zada mi ha conosciuto, è sempre improntato al massimo chiarezza, trasparenza, doti delle quali il dottor Zada sicuramente non è secondo, sulle quali non è secondo a nessuno. È indubbio che il dottor Zada mi ha aiutato moltissimo, mi ha aiutato. Per me la perdita del dottor Zada è una cosa da far tremare le vene ai polsi, per usare un termine poetico. E devo dire che, visto che non abbiamo mai lesinato critiche al mondo bancario, il direttore generale dell'ABI, Giuseppe Zada, nostro ospite più di una volta in questo programma, quanto a chiarezza e coerenza non deve prendere lezioni da nessuno, lo dico in maniera assolutamente trasparente, oggettiva, ma perché no? Sempre il Corrado Faissola, presidente dell'ABI, ha continuato sui prefetti. Ormai la norma c'è, ha ribadito la contrarietà, diciamo, teorica, l'ipotesi dei prefetti, la perplessità, per essere ancora più corretti, però ha detto, adesso che l'organismo di vigilanza dentro le prefetture è stato varato, speriamo che siano utili. Noi abbiamo manifestato le riserve sulla introduzione di un ulteriore livello di monitoraggio del credito. D'altronde, come dicevano gli antichi romani, la legge fa diventare il cerchio quadrato, cosa che dal punto di vista geometrico non è possibile, e quindi oggi abbiamo una legge che prevede l'istituzione di questo osservatorio a livello regionale. E abbiamo sottolineato che questo osservatorio deve rimanere in un luogo dove i dati che la Banca d'Italia andrà a fornire a livello territoriale, settoriale, possono costituire oggetto di riflessioni da parte di tutti coloro che sono invitati a parteciparvi, e in particolare da parte nostra. E auspichiamo che anche questo osservatorio sia utile per dare un contributo positivo al superamento della crisi. E poi ha continuato il presidente dell'ABI Faissola: a questo punto, in merito ai Tremonti Bond, aspetto che il ministro Tremonti firmi l'accordo raggiunto con l'ABI, e il protocollo già raggiunto con l'ABI sui Tremonti Bond. Le banche aspettano solo che il ministro dell'economia le chiami per la firma, ha continuato Faissola, mi attendo personalmente che il ministro mi chiami per firmare. Il protocollo è arrivato alla conclusione e non ci sono più aspetti dialettici di contrapposizione, quindi manca solo la firma. Proprio i Tremonti Bond, ossia la possibilità per le banche di chiedere prestiti attraverso l'emissione di obbligazioni, bond questo vuol dire in inglese, prestiti al tesoro a un tasso del 7,5 e 8,5%, da restituire in un certo numero di anni, altrimenti diventano azioni, quindi il tesoro entra nel capitale bancario delle banche. Proprio di questo parleremo dopo le informazioni per chi è in viaggio, perché Unicredit, dopo il Banco Popolare, ha annunciato di aver dato mandato all'amministratore delegato Alessandro Profumo per chiedere 4 miliardi di Tremonti Bond. Su questo e soprattutto sull'utile migliore delle attese, il titolo è schizzato, appunto, più 19%. Di nuovo in diretta, ultima parte del programma, il caso Unicredit. Conference call, ossia conferenza con gli analisti, con i giornalisti, oggi da Londra. Le notizie più rilevanti: il gruppo ha chiuso il 2008 con 4 miliardi di utile netto, superiore e non di poco ai 3 miliardi e 700 milioni attesi dagli analisti, e questa è la prima buona notizia. Poi ha sottolineato di aver fatto rettifiche nette sui crediti sugli accantonamenti per circa 3 miliardi e 7 contro 2 miliardi e mezzo del 2007. Nessun bonus per Profumo e per tutti i componenti del management committee della banca, e quindi i principali vertici di Unicredit. E poi il consiglio di amministrazione di Unicredit ha dato mandato allo stesso Profumo per negoziare con il tesoro 4 miliardi di prestito. Ora, alcuni di voi ci chiedono al 349-238-6666, ma sono tanti o pochi? Mettiamola così: un anno fa Unicredit capitalizzava in borsa 65 miliardi di euro. Adesso capitalizza in borsa 14 miliardi. Questo è il calo che ha avuto il titolo, che valeva 6,3 euro per azione, oggi vale 1,15 euro, ma insomma 2 settimane fa valeva 70 centesimi. Per cui su 14 miliardi di capitalizzazione, 4 miliardi non sono poca cosa, stiamo parlando di un 25% a spanne della capitalizzazione di borsa. Vediamo di capire invece come mai il titolo abbia guadagnato così tanto con Alessandro Graziani. Alessandro, del Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Ascoltiamo prima un passaggio della conference call in inglese di Alessandro Profumo, in cui ricordo come nel 2009 sarà un anno duro, anche se il gennaio e febbraio non sono stati dei cattivi mesi. È un contributo positivo, ha detto Profumo, sulla scia di quanto, devo dire, già annunciato Citigroup in America, Barclays in Gran Bretagna, e poi ha anche annunciato che spera di distribuire, che vuole, fiducioso di pagare il dividendo anche nel 2009. Sentiamo Profumo sul 2009. We enter 2009 with a group franchise which is strong and is a key element in a difficult year, with a capital position which is already significantly improved, and with a possible increase via the government bond issues. E quindi cominciamo il 2009 con un contributo positivo, solidità patrimoniale migliorata in maniera significativa, che migliorerà ulteriormente dopo il ricorso ai Tremonti bond e bond governativi. E finora tutto bene, ma chiaramente il 2009 non sarà un anno facile. So far so good, but clearly 2009 is not an easy year and we cannot undervalue that. Allora, Alessandro Graziani, Profumo di ottimismo? Profumo di soddisfazione per il momento, mi sembra aver capito, per i risultati del 2008 che sono andati un po' meglio del previsto. Anche se ovviamente, come ha detto Profumo, il 2009 si preannuncia molto difficile, però certi dati che lui ha fornito per i primi due mesi dell'anno, che in teoria sembravano quelli più difficili, lui ha detto che per il momento sono stati positivi. In aggiunta a quello ha detto che confida che la banca chiuda in utile anche il 2009 e quindi possa dare un dividendo. Effettivamente hanno sorpreso in positivo gli analisti, il mercato, e credo che questo sia anche il motivo principale per cui oggi il titolo ha guadagnato il 19%, mentre la borsa ha guadagnato l'1,7%. Allora, poi arrivo alle altre domande, ma insomma, secondo te ha pesato di più oggi l'utile del 2008 migliore delle attese, la speranza di riuscire a distribuire un dividendo anche nel 2009, quindi anche lì migliore delle attese, un ottimismo di fondo o il ricorso to cure ai Tremonti bond per 4 miliardi? Ma intanto precisiamo che il ricorso agli aiuti di Stato, l'importo complessivo è per 4 miliardi, ma di questi 4 miliardi circa 3 miliardi saranno chiesti al governo austriaco e un miliardo al governo italiano, certo. E quindi di Tremonti bond veri e propri dovrebbero essere un miliardo. Sì. Questo per precisarlo. E in ogni caso, diciamo, l'utilizzo dei Tremonti bond era abbastanza atteso e preannunciato anche dallo stesso Profumo. L'importo, diciamo, nei fatti è una ratifica. Certo, a livello internazionale, da parte del mercato, sapere che la banca avrà 4 miliardi di capitale, perché noi continuiamo a chiamarli impropriamente bond per semplificare, ma precisiamo sempre che di fatto è capitale in più, come avevi detto tu all'inizio, e questo rafforza la solidità patrimoniale della banca, che era un po' la preoccupazione in vista di un 2009 difficile da un punto di vista del credito, perché se non hai capitale non puoi dare credito alle imprese. Sì, hai fatto bene a precisare che che i 4 miliardi richiesti sono 3 miliardi al governo austriaco, lì c'è la vicenda anche della Bank of Austria e delle controllate anche nell'est Europa, 1 miliardo di Tremonti bond. Io ricordavo la capitalizzazione complessiva del gruppo Unicredito, che fattura il 50% della sua attività all'estero, adesso vado a spanne, non vorrei dire un'inesattezza, e quindi complessivamente noi guardiamo la capitalizzazione generale del gruppo. La domanda che più sta arrivando è questa qui: se Unicredito ha chiuso il 2008 con 4 miliardi di utile, migliore delle attese, perché chiede 4 miliardi? Cioè, se è inutile, e se non ha, diciamo, grosse difficoltà, se l'utile va meglio delle attese, perché chiedere soldi? Traduco banalizzando un po'. Beh, il motivo, diciamo, l'ha spiegato Profumo anche oggi in conferenza stampa, ed è nel fatto che le altre banche europee hanno aumentato il loro capitale attraverso strumenti simili ai Tremonti Bond concessi dagli stati, vale per la Francia, per la Germania e per i paesi principali. Non si riesce a competere in Europa se non si hanno le stesse dotazioni patrimoniali delle altre banche. E qui c'è la vicenda del TR, termine abbastanza tecnico, ma riguarda appunto quanto capitale hai in banca, anche qui un po' banalizzando. Alessandro, ti faccio notare che adesso un'agenzia batte però la decisione di Standard & Poor's di abbassare il voto sul debito di Unicredit da A più ad A. Non so se questo possa modificare lo scenario. Era atteso? Questo, diciamo, per il momento non era atteso, adesso cerchiamo di capire se certo, no, è nell'ultimo momento la spiegazione che dà Standard & Poor's. Sì, anche perché appunto i conti, per quel poco che ci capisco io, sono sembrati migliori delle... No, anche perché soprattutto appunto aumentando il capitale grazie a sì, 4 miliardi, in teoria il debito dovrebbe essere più garantito. Adesso cerchiamo di approfondire. Ecco, guarda, te lo do in diretta perché lo stanno battendo adesso le agenzie, come conseguenza del peggioramento delle condizioni nell'Europa dell'Est. Ecco il motivo per cui, quindi, la preoccupazione è tutta su un peggioramento da parte di Standard & Poor's delle condizioni creditizie, delle controllate e in generale dell'economia dell'Est Europa. Grazie ad Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. Ultimo tema, se ci stiamo, e penso di sì, riguarda non più le banche, non più la borsa, non più l'industria, cioè i temi di oggi, ma gli occupati e i disoccupati. L'INPS oggi infatti nella relazione annuale ha anche precisato quanti assegni di disoccupazione ha erogato l'anno scorso. Particolarmente rilevante è l'incremento relativo alla domanda per trattamento di disoccupazione ordinaria. L'incremento registrato nei primi due mesi dell'anno in corso sembra quindi confermare la tendenza in atto già dallo scorso anno. Un discorso a parte merita l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, direttamente collegata alla crisi economica che stiamo attraversando. In particolare, non può non evidenziarsi la crescita del 97% circa delle ore autorizzate per interventi di Cassa Integrazione tra il 2007 ed il 2008, a fronte della sostanziale stabilità delle ore autorizzate per Cassa Integrazione Guadagni straordinaria. Questa è la fotografia scattata dal presidente dell'INPS, Antonio Mastropasqua, e quindi avete sentito, ha erogato 1.400.000 assegni di disoccupazione e 700.000 trattamenti di Cassa Integrazione, a cui si sommano 165.000 beneficiari della mobilità. Mastropasqua ha anche affermato che il sistema è in equilibrio, che il sistema delle pensioni è in equilibrio, che non c'è bisogno di una nuova riforma delle pensioni. Quanto ha speso l'INPS per pensioni nel 2008? 166 miliardi di euro, ossia oltre 166, è un più 2,8%. E anche il ministro Sacconi ha confermato che non sta pensando a una riforma strutturale delle pensioni, che non è il momento per riforme strutturali. Vorrei chiudere però questa puntata molto intensa, con moltissime notizie, con un ricordo. Domani purtroppo celebriamo la ricorrenza, celebriamo nel senso più positivo del termine, della morte, dell'assassinio di Marco Biagi. Anche Radio 24 dedicherà numerosi spazi a un evento che non avremmo mai voluto, di cui non avremmo mai voluto ricordare l'avvenimento. Sentiamo il commento di Maurizio Sacconi, ministro del welfare, proprio sulla figura di Marco Biagi. Soprattutto questo dobbiamo a Marco, di avere introdotto nel nostro tradizionale vecchio dibattito circa il nostro mercato del lavoro, la nostra legislazione sul lavoro, il nostro più generale modello sociale, l'avere introdotto proprio il concetto della società attiva. Egli, che non era un giuslavorista classico con i vizi ricorrenti dell'autoreferenzialità, egli che era soprattutto un uomo ansioso di risultati, ed è soprattutto con Marco, soprattutto con non solo la sua attività di ricerca, ma soprattutto la sua attività di consiglio del principe, quell'attività di consiglio che egli ha rivolto a più governi, a più ministri, seguendo però un filologico rigorosamente coerente in questa funzione di advising, di consiglio. Egli ha introdotto proprio indicatori che hanno a riferimento il grado di valorizzazione del nostro capitale umano. È per questo che dedicheremo a lui il prossimo libro bianco, rivolto a delineare i valori e la visione di un futuro modello sociale. E quindi l'annuncio di un libro bianco dedicato proprio a Marco Biagi. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.